Eccoci qui in una nuova puntata di Absolute Beginners, dilettanti mai emersi. Benvenuto Sasà. Ciao Vabe, ciao a Esatto, tutti. benvenuto anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Anche questa sera, dilettanti per modo di dire, beh sì, siamo nel 1980 in California, a San Pedro, e voi direte, ma dov'è San Pedro? Beh, Los Angeles. Io all'inizio non lo sapevo e immagino che i nostri ascoltatori neppure. Stiamo parlando dei Minutemen. Sì, parliamo dei Minutemen, San Pedro, tra l'altro uno dei porti più grossi e importanti Del sul Pacifico. Pacifico, quindi parliamo di un quartiere di Los Angeles dove sono cresciuti i nostri eroi di oggi, D-Boom, Mike Watt e George Hurley, e sono loro tre, chitarra, basso e batteria, un trio classico per fare musica poco classica. Sì, poi immagino che magari il nostro ascoltatore tipo, sempre che esista, conosca i Minutemen. Sì, in effetti comunque tra i gruppi che abbiamo trattato finora forse sono tra questi quelli che possono godere del nome di cult band di culto, anche purtroppo data la scomparsa precoce del loro cantante chitarrista di Boom, da quel momento forse i Minutemen sono entrati quasi nella leggenda in un modo o nell'altro. Sì, una fama exposta che quindi li relega di diritto nelle ranghe, nei ranghi, scusate, di Absolute Beginners. When you make the sense, you got no position. What you need is a validation. Go ahead, you got my permission. Six slugs, 6 points of view. Materialism. I say I got a book in my hand. 50,000 words, 50,000 translations. Idealism. natural society. Murdered ideas of reality. And words like freedom in common cause. And words like hate won, all is lost. I can't follow a man on a white horse. Dreams in control, they all look to course. Tyranny is the real word. Voices and opinions are never heard. They all work in a working mass. They all work for the ruling class. State relies on the working man. If there's a party and the fatherland, they all kneel to the party elite. All enslaved to the fascist. Keep saying John McCarthy, you wanna do that? When I point. Can you really be sure of the goddamn time of day? Can you take the dirt with the fist of a foreigner? Are you gonna fight when they call out your number? Can you toe the line? Can you repeat what you've been told? Can you bite the bullet? Can you see the enemy? Can you point your finger? Can you prove your loyalty? Forse paranoici erano un po' davvero, ma soprattutto erano dei ragazzi di provincia. Abbiamo parlato di Los Angeles, ma Los Angeles, uno si immagina una gigantesca metropoli. San Pedro in realtà era una cittadina ai margini dell'area metropolitana di Los Angeles. Era il suo porto, uno dei porti più grandi del Pacifico, ma uno si immagina appunto Los Angeles come se fosse una città all'europea. No, non lo è. È un enorme territorio, un po' più piccolo della Romagna forse, e con un abitato molto molto distribuito. E vivere a San Pedro era vivere a decine e decine di miglia da Hollywood, dal centro nevralgico dove per esempio i concerti avvenivono. E Dee Boone, il chitarrista e cantante, e Mike Watt erano amici di infanzia, avevano 13-14 anni e avevano sempre suonato assieme, come in tanti gruppi di paese. Sì, infatti si conoscono durante gli anni del liceo, i primi anni del liceo, e diventano subito migliori amici. E parlavi del quartiere di San Pedro, cittadino, quartiere della metropoli enorme che è Los Angeles, dove tra l'altro si raccontano proprio loro stessi in un documentario chiamato We Jam e Kono, che racconta la loro storia. Raccontano che la mamma di Dee Boone preferiva che questi due ragazzi spendessero i pomeriggi in casa a provare a suonare, quindi permettendo a loro di far casino piuttosto che passare il tempo per strada, dove comunque forse era un pochino rischioso, insomma, un ambiente di porto, anni 80, insomma. Beh sì, San Pedro era una zona working class, popolare, esatto. Povera, magari non c'erano ancora le street gang, ma erano di lì a venire dagli anni 70, quindi sì, a inizio degli anni 70 probabilmente un ragazzino di 13-14 anni dava da pensare alla mamma, che ha detto: ma perché non vi mettete a casa e vi insegno io a suonare la chitarra? Sì, e abbiamo tra l'altro in questi 6 minuti abbiamo ascoltato il primo EP dei Minutemen, Paranoid Time, appunto, come hai esordito tu in questo momento. Beh, vi sarete accorti che le tracce sono brevi. Sono brevissime, appositamente, volevano comunque fare la loro cosa e si sente, sono molto originali, anzi non riesco neanche a paragonarli con un altro gruppo. Volevano essere brevi e interrompere per dare l'idea, appunto, che davano i Minutemen di essere sempre allerta e di mettere in allerta chi li ascoltava, perché comunque sembra sempre che il brano si interrompa quando meno te lo aspetti e ti mette in una condizione di allerta. Brevi ed incisivi. Used to be frightened at one discriminate league. matter was life. Who got the handshakes and ruins of a culture still left name? Remember the camps before you're born, the mourn of the families. Touchables hands! Man, it's scan! Incredibile a dirsi, questi dischi che avete già ascoltato, siamo già a metà del primo LP, bene, uscì uno su SST, che era l'etichetta dei Black Flag. Black Flag erano ancora loro agli esordi, erano di Los Angeles, e i Minutemen si conoscono andando al concerto dei Clash nell'80 all'Hollywood Bowl. Vedono questo ragazzo alto dagli occhi penetranti, bene, era Greg Ginn dei Black Flag. Fanno amicizia e scoprendo che i Black Flag avrebbero suonato appunto a San Pedro qualche giorno dopo. Bene, Greg Ginn gli chiede loro di aprire per loro al concerto, senza conoscerli. Sì, gli chiede tra l'altro di registrare per la SST Records, cosa che penso sia stata accolta con tanta sorpresa dai tre Minutemen, perché diciamo che D-Boo e Mike Watt erano amici d'infanzia che semplicemente avevano speso gli anni del liceo, i pomeriggi del liceo a suonare la chitarra e il basso nella casa di D-Boo, e tra l'altro non sapevano neanche accordare chitarre o cose, era puro divertimento. E tra l'altro iniziarono a suonare suonando cover, e mai avrebbero pensato di poter registrare un disco. Quindi immagino la sorpresa che loro ebbero quando Greg Ginn propose loro, cioè SST, parliamo di una etichetta imprescindibile quando si parla di hardcore della West Coast, e ricordiamo appunto Black Flag, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Husker Du, insomma. La seconda e la terza pubblicazione della SST sono il primo EP che abbiamo ascoltato, Paranoid Time, e quello che stiamo ascoltando adesso, The Punchline. Che per tre ragazzi di estrazione working class, che fin da, nelle parole di Mike Watt, fin da quando avevano 14 anni si erano resi conto andando a vedere i T-Rex, Tyrannosaurus Rex, che è comunque una band molto famosa inglese, che loro erano di un'altra classe e che aveva successo riempire gli stadi non sarebbe mai stata una cosa per loro. E invece incontrare Greg Ginn, l'SST e tutto lo spirito do it yourself, che era tipico di una certa working class americana, non era solo tipico dell'hardcore, esisteva già. Il fai da te era tipico di chi si barcamenava e aveva pochi soldi perché i lavori erano magari poco pagati, quindi sapeva aggiustarsi a casa, rifarsi magari dalle fondamenta a casa o riparare un po' di tutto. Bene, questo spirito ben si accordava con il loro background, diciamo, familiare, e entrarono a piedi pari nell'hardcore punk, anche se di hardcore punk avevano ben poco. Sapevano suonare anche meglio del musicista medio punk, molto meglio. years ago, for legends were ever told. Almost atheists stood erect, mind empty and mind fresh. Get it love and hate, get it God and anti-God. Against the flux, play the field, push the wheel. Talking, being boxed in, well, friends of friends of friends of friends and so on. Fruitless time of Newton's search only proves that flesh and muscle are being pulled off our bones. Tra l'altro, oltre ad essere amici, i tre erano mal assortiti come pochi, in senso buono. Sembravano usciti, non lo so, da contesti completamente diversi. Invece erano tutti e tre di Pedro, di San Pedro. Di Boone sembrava il classico ragazzo che viene preso in giro a scuola, un bello corpulento. Mike Wall sembrava il figlio di Jerry Lewis, e il batterista sembrava... Era un ex surfista che, dopo essersi vista brutta alle Hawaii, perché un po' di soldi l'aveva ed era riuscito a 19 anni ad andare a fare surf alle Hawaii, ma a momenti rimaneva sotto, decise, appena tornato da San Pedro, di vendere la tavola e di comprarsi una batteria. Ma questi tre personaggi, apparentemente senza troppa colla l'uno con l'altro, erano in realtà tre grandi musicisti. E formavano un insieme... bellissimo e così vivo, così energetico di musica, e tra l'altro, cioè, fuori luogo non solo loro tre all'interno di una visione generale, ma soprattutto all'interno dell'insieme dei gruppi hardcore della scena di Los Angeles di quegli anni. Si trovavano spesso questi ragazzi a suonare con appunto i Black Flag, come dicevamo prima, e ambienti violenti dove la gente che andava ai concerti era violenta, si parla di, cioè, parliamo di sputi, pogo, botte. E invece questi tre ragazzi in realtà volevano solo suonare, volevano solo divertirsi, e quasi appunto sembravano non appartenenti a questa scena, eppure rimangono tra i gruppi più importanti di questa scena in un modo o in un altro. Come mai? Cioè, e soprattutto non gliene fregava niente di apparire, ma proprio zero. E si vede anche da come si sente, da come suonano, perché bene o male ognuno ha il suo spazio, non ci sono quasi mai tensioni, no, mai direi, tensioni musicali l'uno con l'altro. Il contrappunto è quasi totale tra chitarra e basso, che viene suonato come appunto una chitarra. E questo esprime anche all'ascolto. A me hanno sempre messo di buon umore, perché traspare gioia. Il gusto, sì, la gioia di suonare e di esprimersi senza quel tipo di ritegno. No, ritegno che tra l'altro di Boone sul palco non tratteneva assolutamente, saltando. Prima tu hai detto un personaggio quasi bullizzato, diciamo i nostri ascoltatori, era una persona, diciamo, corpulenta, mettiamolo in questa maniera, ma quando saliva sul palco si metteva a saltare con questa Telecaster e con queste ditone tozze. Un chitarrista grandissimo. Only take one. Questo è già il loro secondo album, si chiama What Makes a Man Start Fires. Insomma, questi Minutemen li abbiamo un po' raccontati agli esordi, velocemente si evolvono scrivendo decine e decine di canzoni per ogni album, ma d'altronde erano delle miniature di canzoni, però c'era tutto, l'introduzione, diciamo che non c'erano anche, no, c'erano anche gli assoli, brevissimi. Però, cioè, in un minuto riuscivano a riassumere tantissime cose. Possiamo parlare di funk, possiamo parlare di country, possiamo parlare di punk, come canta di Boom, mi risulta parecchio punk. E il loro percorso appunto passa per Punchline, che abbiamo ascoltato adesso, un album vero e proprio, per quanto parliamo di 15 minuti di musica, per una quindicina di pezzi, si parla sempre di un minuto più o meno di media per brano. Come detto adesso, Babe, abbiamo iniziato a ascoltare What Makes a Man Start Fires dell'83, tutti per SST Records, e questa musica porterà poi nell'84 a Double Nikes on the Dime, che è probabilmente il loro album, no, probabilmente, sicuramente il loro album più famoso, il loro manifesto, la loro pietra miliare che ci hanno lasciato. We'll be right back. Io penso che se nell'hardcore la purezza e l'impegno politico fossero fondamentali, questa era la cosa che più legava i Minutemen alla scena hardcore, ma a differenza di molti che entravano magari già politicizzati, non poi così tanti, nell'hardcore e poi scrivevano testi impegnati, i Minutemen arrivano portando loro stessi, perché loro stessi venivano veramente dalla working class e vivevano una vera commistione tra esistenza e politica. L'avevano vissuta sulla loro pelle, crescendo in un sobborgo che sarebbe stata una cittadina, ma comunque una cittadina portuale. E penso che in testi come Bob Dylan, Raw Propaganda Songs, o Fascist, o Mutiny in Johnstown, in realtà si togliessero qualche sassolino della scarpa, sapevano, man mano, penso fu una cosa progressiva che mutuarono fino appunto da quando erano amici a 14 anni. La coscienza di classe non penso la acquisirono sui libri o partecipando ad assemblee politiche vere e proprie, ma semplicemente vivendo. Assolutamente, le loro famiglie erano, come abbiamo spesso detto durante questa puntata, working class, però mi piace pensare, ed è vero secondo me, che non volevano loro trasmettere rabbia, non volevano trasmettere violenza. Il loro messaggio era pacifico, mi permetto di dire, era gioia, divertimento e il suono ne risente, l'abbiamo sentito. E al contempo polemico, perché i testi e implicitamente la brevità dei brani comunque stuzzicava, anche solo primo che andava ad ascoltarli, magari era anche abituato al hardcore, appunto suonavano in ambienti hardcore e dicevano: ma questi da dove Ma chi escono? sono? Sì, e anche Questi non sanno suonare. l'intento. Sì, per quanto sapessero suonare molto meglio di tanti loro colleghi della scena hardcore di San Pedro, di Los Angeles, della West Coast, però ecco, mi piace pensare al benessere dell'ascolto che proviene dalla musica dei Minutemen e io sorrido quando li ascolto. Anche io, e poi penso anche ai loro ispiratori che loro citano, Captain Beefheart e Pop Sì, The Group. Wire. Sì, fenomeni musicali eccentrici. Eccentrici, esatto. Vi Beh, ci salutiamo. siamo. Dopo questi eccentrici di lusso, alla prossima. Alla prossima, un saluto a tutti.